Dimmi i nomi. Dunque, la responsabile di noi ragazzi al campo estivo di tennis quando avevo 15 anni. Il nome? Adesso è famosa, non posso dirtelo. Oh, santo cielo, ok. Ralph, la chiameremo Ralph. Va bene, adesso il secondo nome. Melanie. Mel... Oh, lo sapevo. Ho sempre immaginato... Ma te l'avevo già detto. No, adesso vediamo attraverso quante persone dobbiamo passare per trovare un collegamento tra te e me. No, è impossibile. Ok. Melanie è andata a letto con Heather. Sì. Heather è andata a letto con Brooke. È andata a letto con Brooke. Sì. Brooke è andata a letto con Nina. E io sono andata a letto con Nina, visto? Wow, sì. Perciò quattro, una, due, tre, quattro, sono le persone che collegano te a me. Sembra che sia un mondo folle e piccolissimo. Folle sì, ma non piccolissimo. The Chart, trasmissione di connessioni, cicli, bicicli, improbabili coincidenze e straordinarie commissioni. Ogni 15 giorni alle 17.15 al martedì autogestito. Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta, The Chart, puntata numero 5, benvenute, benvenuti. Nonostante il traffico di Roma, il freddo polare e tutte le altre amenità, eccoci qua, dalla solita Pink Law. Yes, per una nuova avventura musicale con voi fino alle 17.15. Vi ricordiamo sempre che potete giocare con noi, o meglio, potete... Sì, inviarci la vostra chart sul nostro blog womenchart.wordpress.com. Trovate il form per partecipare, che detta così sembra serissima, però lo è. Quindi partecipate, giocate con noi. Il gioco ormai ha 5 puntate, ci auguriamo che voi l'abbiate capito. Se non l'avete capito, lì sul blog, come sul blog dell'MFLA, ci stanno i podcast, quindi potete ascoltare le puntate e capire che gioco facciamo, o ascoltarci adesso fino alle 18.15 e capirlo comunque. Tanto che ci avete da fare, se siete imbottigliate nel traffico, restate con noi. Cominciamo subito, Pinclo, sei pronta? Vai, allora, sì. La scorsa puntata ci eravamo lasciate con Cat Frankie, appunto, che era la tua ultima selezione. Abbiamo ascoltato Too Young, questa artista australiana di adozione berlinese, e appunto la sua adozione berlinese è il mio primo collegamento di oggi, che, diciamolo subito, altrimenti me lo dimentico. Dance O'Key, Polyamorous God, sarà appunto il pezzo che vi farò ascoltare. Perché Dance O'Key? Sapete, allora, conoscete questa band tutta al femminile, tutta italiana, insomma, tutte anche di amiche, di musiciste bravissime, che spesso ci ha fatto piacere ospitare qui nel martedì qui a Radio Onda Rossa. Una di loro era anche autrice di una trasmissione tra le 22 e le 23, Which Is She. Sì, quindi, insomma, se la ricorda, ci stanno i podcast pure di quella. E dove sono i podcast? Su mfla.noblogs.org. Non ti si può sorprendere mai. Ecco, sì, Eli Natali, che appunto voce e chitarra di questa band molto molto bella, molto interessante, è che è stata appunto speaker qui all'MFLA insieme a Elisa alla batteria e a Stella Veloce al violoncello. Appunto sono le, diciamo, componenti di questa band. Qual è il collegamento? Il collegamento è Stella Veloce al violoncello, che anche lei, diciamo, è mezza adottata, ancora sta facendo ancora in affidamento a Berlino, e quindi un po' della sua vita la passa a Berlino, e chiaramente stando lì suonando con tantissime musiciste, come giustamente una violoncellista deve fare, nel senso che salire sul palco è un po' complicato, salire sul palco e fartela tutta da sola, quindi in qualche modo le collaborazioni sono d'obbligo, e una delle collaborazioni appunto è quella che ha fatto live con Cat Frankie. Quindi, insomma, il legame è piuttosto... era piuttosto facile, insomma, spulciando tra i vari video di Cat c'era appunto un bellissimo live proprio girato il suo concerto di Berlino, dove ho identificato lì sul palco Stella, e quindi mi è scattata subito la scintilla. Quindi Dance O'Key, vi ricordo che le Dance O'Key hanno un album uscito a marzo per la Viceversa Records, che è un'etichetta italiana, quindi è uscito a marzo, alla fine marzo. Si chiama Golpe il loro album. Stiamo aspettando, dovrebbe uscire fra poco il video che accompagna questa bella canzone che vi facciamo ascoltare, Polyamorous God. Eccoci in diretta, i microfoni semi aperti, qui si chiacchiera. E state ascoltando The Chart, stiamo iniziando adesso il nostro, la nostra mappa di questa settimana. Io sono arrivata alle Bananarama, prima onda Dona mi stava chiedendo ma come cazzo sei arrivata alle Bananarama. Allora, la prima cosa che ho pensato quando mi è arrivato il pezzo a un certo punto è che erano tre. Quindi il trio eccetera eccetera, e mentre scoprivo tra l'altro che quest'autunno un trio femminile composto da Anastasia Petrova, Galina Kibovic e da, se questo coso mi si toglie da davanti ve lo leggo proprio il nome perché è, da Marina Kopteva, ha compiuto la prima salita del Nord-Est Ridge del Tengkapoche, la montagna di 6500 metri sull'Himalaya. A proposito di tri, questo è il fantastico mondo che ti permette di cercare, quando cerchi un po' di tutto. Poi ho pensato a la maga delle parole chiave, ti dobbiamo chiamare. Vero, però no, questa da cosa era trio all'Himalaya. Dal trio all'Himalaya, comunque questa cosa era bella perché erano tre donne che salgono per la prima volta, aprono un percorso nuovo su questa montagna di 6500 metri che non deve essere stata esattamente una passeggiata, come si suol dire. No. Ed è successo a inizio ottobre di quest'anno. E poi ho pensato a tutti i terzetti più o meno conosciuti della musica, e il primo in realtà che mi è venuto in mente a me personalmente è stato il trio Lescano. Effettivamente. Perché? Perché me lo ricordo che me lo cantava mia madre. Non so se avete presente. Sì, sì. Tuli, tuli, tuli, tulipan. Il triolescano, sempre tre donne in Italia. Tra l'altro, famosissimo il triolescano in Italia. Però poi alla fine, anche un po' per assonanze estetiche, non so, c'era qualcosa. Sono arrivata alle Bananarama. Perché ovviamente loro sono state il trio della musica pop che ha venduto più dischi, ne hanno fatti 20, non si sono ancora sciolte. Questa non la sapevo. Sì. Ci sono ancora le Bananarama. Ci sono ancora le Bananarama. Sono rimasto notizia. Un duo. Sono rimasto un duo. Allora, il trio era formato nell'81, è nato da tre amiche, che era Siobhan Faye, Sarah Dallin e Karen Woodward, e ha scelto questo nome tra la funzione di uno show americano per bambini che si chiamava The Banana Split e una canzone di Roxy Music che si chiamava Pima Rama Rama. Cioè, tanto per tentare. E sono entrate, no, la cosa è bella è che le Bananarama sono entrate nel Guinness dei primati. No. E ci stanno ancora, cioè nessuno ha battuto il loro Guinness nel 1988 come la band femminile di successo più di successo di tutti i tempi. No. Capito? Sarebbe interessante capire su quali basi, cioè la somma di dischi venduti, passaggi televisivi, chissà. Ed è un primato che ancora detengono. Il gruppo si informa che ancora su ogni base passaggi televisivi. Diciamo al pubblico che non è che c'è una voce, cioè ci sono i fantasmi alla radio. Diciamo, e quelli erano in due, ma che è successo che c'è la terza voce? Perché c'è il trio. E quindi ogni tanto arriva la terza voce. Abbiamo Sam ospite, insomma, oggi, quindi siccome The Chart è una connessione continua, noi ci connettiamo anche in studio ormai. E hanno pubblicato nella loro lunga carriera più di 20 dischi. Dal terzo disco che è uscito nel 1986, che si chiama True Confessions, che le consacrò definitivamente al successo mondiale con la hit che tutte adesso noi la mettiamo e tutte quante voi la conoscete, che è Venus, che tra l'altro era una cover di un gruppo degli anni 80 che si chiamava Shocking Blue, e tra l'altro l'originale è molto bello. Non ho messo il video però. Erano in tre. Eccoci. Però fanno ancora... fanno ancora ballare, ma infatti spesso succede che le mettiamo nelle serate, certo, insomma, quando l'atmosfera si fa molto anni 80. Immancabili le Bananarama, insomma, attirano sempre la gente sul palco. E insomma, il mio collegamento dopo le tue Bananarama è piuttosto improbabile, ma anche insomma facile, nel senso che in realtà mi ha ispirato. Stavo leggendo sui vari blog che seguo, le varie riviste musicali, di questa, diciamo, della notizia di queste settimane, sostanzialmente, cioè l'uscita dell'album di Lady Gaga, perché è la notizia più importante. Che insomma, scherzi, io non mi ci alzo la mattina. Sono le cose, sì, sono le cose di cui si parla di più, e appunto, e soprattutto si parla, il pezzo che ho scelto si chiama Venus, come appunto la cover delle Bananarama, insomma il successore delle Bananarama, e appunto si parla solo di questo art pop, di questo album da pochissimo uscito di Lady Gaga, e del fatto che pare sia un flop, nel senso che le copie che insomma si aspettavano di vendere in questa settimana, insomma 10 giorni di uscita, non sono state vendute, quindi già è condannato, diciamo, alla morte perpetua, nonostante l'alta diatriba è tra i fan di Lady Gaga, di cui io non faccio parte peraltro, che insomma si dividono in insomma bell'album, è sempre lei, e quelli che proprio dice no, guarda, questa volta veramente è una cosa terribile, che sinceramente, ascoltando così a casa i pezzi di Lady Gaga, insomma, io non sono una fan, non sono un'appassionata della sua musica, non mi sembra insomma che questo album si differenzi così tanto dai suoi precedenti, insomma, quindi fondamentalmente non riesco proprio a cogliere questa differenza. Decisamente Lady Gaga è un personaggio interessante da un punto di vista proprio pop, no? di sociale, come fenomeno culturale, e la cosa che mi piace molto di lei, insomma, anche se non apprezzo la sua musica, è il suo grande impegno sociale, cioè nonostante sia molto giovane, a 26 anni, e abbia questa immagine così molto sfrontata, controversa, provocatoria, eccetera eccetera, poi ha invece una straordinaria e anche coerente, continuo impegno nel sociale. Intanto, giustamente, come raramente accade nello show business, siccome la maggior parte dei suoi fan sono gay, lesbiche, insomma, soprattutto la comunità gay le ha, credo, comprato la maggior parte dei dischi che ha venduto nel mondo, e lei lo sa benissimo, lo ha riconosciuto, e in qualche modo ha anche sempre perorato la causa dei diritti LGBTQI, si è sempre esposta in Pride, insomma, in qualsiasi posto le hanno chiesto di cantare. Questa è una cosa bella, perché raramente succede che poi... Venuta pure a Roma. Venne pure a Roma al Pride, sì, è vero, insomma, io l'ho vista, l'unica volta che l'ho vista. Ah, ok. Tra l'altro cantò in acustico e dissi: "Ah, però la voce ce l'ha. Se la smettessi di arrangiare quei pezzi tutti da discoteca a oltranza, forse potrebbe fare anche altro, ma è giovane, come dici tu, quindi le auguriamo tanto altro successo e magari cambierà anche un po' stile, che ne sappiamo. Gli artisti fanno un po' di tutto, quindi chissà. Il fatto è che in qualche modo, vedi, lei comunque attira un pubblico e un'attenzione, si sente la sua musica in certi contesti, cioè appunto da discoteca, da dance club, e in qualche modo la sua, diciamo, il suo successo è legato anche a questo, no? Il fatto che comunque la sua musica faccia ballare, certo. E quindi non lo so. Però speriamo, magari, insomma, che ne so, fra una ventina d'anni la vedremo anche fare. Perché comunque immagino che per la casa discografica il flop sarà che avevano previsto di vendere 20.000 e invece ne avranno vendute 8. Sì, cioè, non stiamo parlando sempre di numeri grossi, immagino, così. No, in effetti i numeri, no, tu dici nelle differenze di aspettative? Sì, anche bisogna dire che in realtà adesso diciamo i numeri che si vendono rispetto, che ne so, a 10 anni fa, 15 anni fa, e le classifiche si fanno con una quantità di copie molto molto molto più bassa, quindi insomma sì, molto, è tutto molto più piccolo. No, volevo dire, prima di farla partire, visto che me la stai facendo sentire, e che non si impegna solo per diciamo i diritti LGBTQI, ma anche, insomma, ha fondato una sua associazione che si chiama Born This Way, che tra l'altro è il titolo di un suo pezzo, Foundation, che si diciamo lavora a supporto soprattutto degli adolescenti sulle questioni che riguardano l'autostima, l'autostima, contro il bullismo, insomma, quindi fa un sacco di cose, si è impegnata molto per l'abrogazione del Don't Ask, Don't Tell e tante altre cose, ha fatto un sacco di raccolte fondi contro, insomma, per la ricerca, per l'HIV, quindi mi piaceva dire questo, visto che di solito di questa persona, di questo artista si dice tutt'altro, quindi insomma sentiamocela, Lady Gaga, Venus. Abbiamo la puntata ballereccia oggi. Vi avvertiamo, questo diventerà il pezzo di Natale. Io lo dico, l'ho detto. Va bene, così se è vero, poi che facciamo? Ti paghiamo la birra. Niente, dovremmo scommettere, come fanno in Inghilterra, che scommettono sulla qualunque. Scommettiamo che sarà l'album, il pezzo di Natale, tipo 20 euro a un... tutte le feste natalizie. Per tutte le feste natalizie, vedrai. E poi andremo a tutte le feste a vedere se mettono questo verificare. Pezzo. A verificare. Io invece adesso passeremo a Eni di Franco. Ma diventiamo da Lady Gaga, Eni di Franco, pure lì. Ah. Come ci sei arrivata? Allora, in realtà è stato... non è così lontana come cosa. Dicevamo prima che appunto Lady Gaga è tantissimo impegnata nei diritti LGBT della comunità, anche se... perché secondo me è forte debitrice anche da un punto di vista del look, dell'idea, del trasformismo, dell'aspetto drag quantomeno che lei porta in giro, quindi forse è anche il minimo che lei poi si faccia sponda dei diritti LGBT. In qualche modo probabilmente ci crede, se no non lo farebbe. E tra le altre cose è appunto anche attiva nella campagna di lotta all'HIV e insieme a Cyndi Lauper ha lanciato una linea di rossetti i cui ricavati vanno appunto alle associazioni di prevenzione dell'AIDS. Allora, Cyndi Lauper non credo che abbia bisogno di troppe presentazioni alla terza canzone da trittico danzereccio ho detto vabbè, ok, dai, proviamo a trovare qualcosa di più. E non c'è bisogno neanche che la presentiamo alle nostre ascoltatrici, voglio dire, del suo primo disco facevano parte Time After Time, Girls Wanna Have Fun, Just Wanna Have Fun, e voglio dire, chi è che non la conosce di quelli che ci ascoltano? Dubito quasi nessuna. Insomma, nel 2005 però lei ha riarrangiato in chiave acustica alcuni brani della sua appunto anche la infinita carriera, perché pure lì si parla di non so quanti dischi, e si chiama The Body Acoustic, e in questo disco, che è pieno zeppo di collaborazione, ce n'è anche una con Annie Di Franco che canta con lei insieme a Vivian Green, Sister of Avalon. Accidenti. Questa me l'ero persa. Vedi, ascoltate le chart perché tutte scopriamo qualcosa, pure noi che lo conduciamo, pensate un po', cioè, ci sorprendiamo tra noi stesse, perché voi ormai lo sapete, chi ci ascolta un po' lo sa, ma noi non ci svegliamo le nostre connessioni, ma le svegliamo con voi qui all'ascolto in studio, quindi chiaramente ci scopriamo queste cose. E questo è il motivo per cui ho deciso di passare appunto una canzone di Annie Di Franco. E anche lì, che passiamo a Di Franco, carriera lunghissima, 19 album in studio all'attivo, quasi altrettanti live, e ne ha appena pubblicato uno nel 2012, ma io alla fine ho scelto, quindi a mio gusto diciamo, di passare una delle canzoni che mi piace di più, che è il title track dell'album Little Plastic Castle del 98. Vabbè, lei ha la sua casa di discografica, lo sappiamo, la Red House Baby, con cui pubblica praticamente tutti i suoi dischi, nonché i dischi di altre artiste che poi porta in giro anche lei in tournée. E insomma, questo, ascoltiamoci Annie Di Franco, va. In a coffee shop in a city, which is every coffee shop in every city, on a day, which is every day. I picked up a magazine, which is every magazine. I read a story, then I forgot it right away. And they say goldfish have no memory. I guess their lives are much like mine. And the little plastic castle is a surprise every time. And it's hard to say if they're happy, but they don't seem much to mind. From the shape of your shaved head, I recognized your silhouette as you walked out of the sun and sat down. And the sight of your sleepy smile eclipsed all the other people as they paused to sneer at the two girls from out of town. I said, look at you this morning, you are by far the cutest. But be careful getting coffee, I think these people wanna shoot us. Or maybe there's some kind of local competition. crazy oak can be the rudest. Two dimensions, like lipstick, is a sign of my declining mind. Like what I happen to be wearing the day that someone takes a picture is my new statement for all of womankind. And I wish they could see us now in leather bra. Shorts, like some ridiculous new team uniform for some ridiculous new sport. Quick, someone call the girl police and file a report. Which is every coffee shop in every city. On a day, which is every day. Eccoci, ci siamo noi perché... Oltre ad ascoltare la musica che vi proponiamo in sottofondo, come voi, poi intanto chiacchieriamo, perché da lì le connessioni non finiscono mai, per cui ci raccontiamo anche dove saremmo potute andare, non siamo andate, insomma è piuttosto interessante. Dovreste farlo insieme questo gioco, perché è molto stimolante, almeno per noi funziona benissimo. Eli Di Franco vabbè, è un'artista che passa sempre anche lei insieme a Joni Mitchell nelle nostre discussioni in un modo o nell'altro, perché veramente ha fatto un sacco di cose e un sacco di collaborazioni, ed è, come dicevi tu, un po' autarchica, molto autarchica da un punto di vista produttivo, di produzione, nel senso che appunto, come dicevi, ha fondato questa Writer's Babe Records, che è appunto la sua etichetta che produce tantissime artisti interessanti. Parlavamo di Andrew Bird, Annie Mitchell, eccetera, quindi andatela a cercare sul web, perché troverete sicuramente qualcuno o qualcuna che non conoscete, che invece merita attenzione. E quindi da lì in realtà il mio discorso, la mia riflessione è andata un po' sulle autoproduzioni, poi il DIY mi riporta sempre indietro al mio amore delle Riot Girls, e riflettevo sul fatto che in questi ultimi pochissimi anni, recentissimi anni, le cassette sono ritornate straordinariamente in voga. Adesso si ritrovano, si ricominciano a produrre da un po' di anni e si cominciano a ritrovare anche i lettori per le cassette, insomma. Io il mio non l'ho buttato. Non l'hai mai buttato? Il mio si era rotto, ma io ne ho comprati tipo 5 nella mia vita. Il primo me l'hanno regalato i miei, era bianco Panasonic, me lo regalarono, non so, forse a Natale, ma avevo tipo 12 anni, 13 anni. L'ho sfondato di cassette, ne ho comprati altri 3 nel mentre, fino a quando non sono arrivati i CD portati. E poi anche quello non ho buttato, staccato, funziona. Ma ce l'hai ancora? Sì. Quindi vengo a casa tua a ascoltare le cassette finché non riuscirò a trovare un lettore che mi piace. Ecco, ed è una cosa bellissima. Adesso hanno cominciato anche con il Cassette Store Day, lo fanno ai primi di settembre, quindi l'anno prossimo preparatevi ad andarci, perché è molto divertente. In genere lo Store Day è sempre molto divertente, perché nei negozi, nei piccoli negozi dove si vende, si smercia la musica, si spaccia musica, insomma ci sono delle bellissime offerte, c'è la possibilità di ascoltare musica dal vivo, quindi insomma in genere ci sono sempre delle bellissime occasioni. Un'altra cosa in merito alle cassette che volevo dirvi è che c'è, andate a guardare www.cassettefilm.com, che è il sito praticamente di un progetto di 3 tipi appassionati di cassette, 3 tipi americani, e che stanno mettendo su, dopo aver tirato su i soldi con Kickstarter, quindi insomma finanziato dalle persone il loro progetto, un documentario sulla storia delle cassette, quindi insomma su quello che è successo prima che sparissero quasi completamente e su come sono ritornate ad essere a vivere e ad essere utilizzate. Moltissime label indipendenti utilizzano realizzano, cioè stampano cassette insomma in questi anni, quindi potete acquistarle tranquillamente, tra cui la label che produce questa band che voglio farvi ascoltare, anche per dare un cambio proprio di stile, perché da Eni di Franco passiamo a punk bello tosto massiccio. Loro sono White Lung. Lì perché non possiamo non mettere il punk almeno ogni due puntate, che se no ti senti male. Sì, esatto, una bottarella io devo dare sempre. Loro sono una band di Vancouver, sono quattro componenti, una batterista, una bassista, un chitarrista, per fortuna in minoranza questa volta gli uomini, e una cantante, si chiama Mish Way. È molto particolare, la sua voce ricorda un po' la prima Courtney Love, quella che bella che si sfondava, insomma simpatica, che non cominciava a dire stupidaggine e faceva ancora dei pezzi belli, visto che il primo album delle Hall era assolutamente fantastico. La musica ricorda un po' Babies in Toyland, L7, perché insomma vira piuttosto sull'hard, quindi niente male. Loro sono molto DIY, hanno organizzato un tour tra il Canada e gli Stati Uniti suonando praticamente in piccoli localini, minuscoli posti, tant'è che Jen Pelly, che è una giornalista, una scrittrice di vari magazine musicali che seguo, racconta che talmente erano piccoli i posti dove andavano a suonare, che lei quando andava a sentirle è sbattuta contro il microfono. Loro sono White Lung, il pezzo si intitola Saying Dead. Ovviamente hanno lasciato tutto aperto, giustamente, come classico. Pure quello che avete sentito all'inizio non eravamo noi, erano loro, direttamente tutti i frusci che sentivano, che accendevano le cose. Esatto, esatto. Vabbè. puoi dirlo, non sei una fan di White Lung, tanto no. Meno del punk. No, non è vero, va bene pure il punk. Tra l'altro è stato uno dei grandi ingressi delle donne nella musica in maniera massiccia, il punk, massiccia in tutti gli strumenti, cioè nel senso che si sono dati al basso, alla chitarra, alla batteria, hanno fatto le band, ce ne sono tantissime appunto. Quindi lo ringraziamo, il Do It Yourself del punk, perché ha liberato molto della musica delle donne, se no... Sì, diciamo che è un stile di musica molto istintivo, molto veloce, che in realtà all'epoca delle Riot era anche molto maschilista, quindi buttarti in mezzo a una pogata durante un concerto era una roba rischiosa assai, molto coraggiosa dovevi essere. Però era anche molto bello. E viva il pogo. Vabbè, oggi si balla in un modo o nell'altro, abbiamo capito questo. Ma io all'inizio avevo pensato che anche loro fossero un trio, poi tu ne hai nominati 5, ma forse il nucleo 4. Nucleo forte era quella di 4. Io pensavo, ho detto no, un altro trio. Vabbè, e in realtà nel loro gruppo, anche se è giovanissimo, musicalmente giovanissimo, mm-hmm. per 2 anni ha suonato la chitarra Natasha Reich, che poi adesso è andata via, non so a far cosa. E in realtà non so a far cosa perché non ha altri progetti musicali attivi. Però sempre perché appunto stiamo anche trovando, quando facciamo The Chart, questo spazio delle donne che producono anche la musica. Lei è stata ingegnere del suono per un 7 pollici, come si chiama in gergo, quindi c'è, cioè, un single praticamente, un dietro fronte, un LP, quelli di una volta, e il 7 pollici perché è quello piccolo, non so se voi avete presente il 33 giri, il... Mm-hmm. Sì, tu sì, no, parlavo alle nostre ascoltatrici. Immaginavo. Chiamateci allo 06 49 7 50 e raccontateci della vostra esperienza con il 7 pollici. Con il 7 pollici, io ce ne ho un paio autografati a casa di 7 pollici, perché poi ormai li fanno un po' più da per... te no, da... no, dai gruppi che sarebbero. Io ce n'ho uno degli Scisma. Accidenti, una roba seria. Una roba seria, un gruppo italiano. Prima o poi, chissà, magari sbucheranno pure The Chart. E uno degli Usmamò. Accidenti. Sì, quando ero giovane andavo in giro per concerti e mi portavo, come tutti fanno, un pennarello e i dischi. O li compravo al banchetto prima del concerto. E insomma. Ma veramente lo faccio ancora adesso? Io pure lo faccio adesso, l'ho appena fatto a Kaki King. Sono uscita dal concerto e ho comprato il disco. Quindi non quando eravamo giovani. Cioè, ci siamo giovani perché da... noi siamo giovani. Sì, assolutamente. Esatto. Siamo rimaste giovani dentro. Insomma, ha fatto l'ingegnere del suono. Questa, appunto, lei, Natasha Reich, che ha suonato la chitarra anche nei White Lung, Lang, scusate, e per Sally Dige, che è una di queste artiste molto multidisciplinari, designer, performer, visual artist, eccetera, che ogni tanto diceva: ma sai che c'è, mia moglie ci canta anche una canzone. Ce lo metto pure quello nel curriculum, chissà infatti se avrà seguito, perché comunque è stata anche lei, questo è uscito adesso questo singolo quest'estate, e appunto Natasha lì ha fatto l'ingegnere del suono. Questa era la mia connessione. Noi ci sentiamo Sally Dige, che ha un sound tipo un po' new wave, un po' Siouxsie, un po' quell'atmosfera, sempre anni 80, torniamo agli anni 80. Niente, oggi sono i tri e gli anni 80, sapete che The Chart a un certo punto ha queste connessioni, ma il loop ma il loop. voilà. A me è piaciuta Solid Edge, mi è piaciuta molto, mi ha fatto fare un tuffo nel passato con questi flanger a palla, quindi insomma una bellissima scelta. Diciamolo che cosa sono i flanger. Sono questo effettone quello della chitarra qui, che, insomma, ve lo potete appunto rivendere a una cena se volete fare le fighe, diciamo, ma senti questo pezzo là, senti questo flanger, così insomma un po' senza conquistare punti lesbici, però senza mettere troppo l'accento sul fatto che lo sapete, con molta nonchalance. Comunque insomma sì, era un brano molto new wave, molto darkoid, appunto mi stavi dicendo pure le altre cose che ci ascolteremo di Solid Edge. E Solid Edge esce per la Night School Records, che è appunto una bellissima, molto molto carina etichetta che produce, scusate, molte artiste, tra l'altro, tra cui Ella Orlean, che è un'artista che vi ho fatto sentire nel programma Sisterhood, che mi piace tantissimo. Lei fa un tipo di musica più sperimentale, ambient elettronica, quindi insomma un genere leggermente diverso, piuttosto cupa anche lei, devo dire. Questa forse sarà il numero minimo comune denominatore. No, non è vero, perché in realtà la band da cui sono arrivate, cioè Golden Girls, che appunto è il pezzo che ho scelto, rieccoci con le R, eccoci qua, è in realtà una band molto solare, molto divertente. Loro sono in tre, basso e batteria, sono due donne, la batterista è anche voce insieme al chitarrista, e la Night School Records, come vi dicevo, produce anche in questo caso, ci ripetiamo, 7 pollici e cassette oltre ai CD, quindi rimaniamo anche nell'ambito di questo tipo di produzioni che vogliamo assolutamente spingere. Quindi l'idea anche di scegliere tirature limitate, perché questo tipo di produzioni hanno una tiratura limitata, escono a volte 300, 1000, insomma 2000 copie, e poi la trovi, non la trovi, sold out, che è una bellissima cosa da vedere sul proprio disco venduto. E un'altra cosa interessante che mi veniva in mente di dirvi è che anche per le artiste che ci stanno ascoltando, per le band di donne, che ce ne sono tantissime che ci ascoltano, è che questa label, come molte altre, vende su una piattaforma che si chiama Big Cartel. È una piattaforma molto interessante, la trovate a bigcartel.com, è molto semplice trovarla, ed è una piattaforma interessante perché praticamente propone con delle bassissime fee, con delle diciamo dei prezzi bassissimi, a volte anche senza pagare nulla, di distribuire, cioè di vendere online, è una piattaforma e-commerce, di vendere online i prodotti di una band, degli artisti eccetera, ma anche di vendere date di queste band, mini tour eccetera. Quindi se siete una band, se siete delle artiste che vogliono mettere in giro le loro magliette piuttosto che tutte le altre cose che stanno autoproducendo, potete utilizzare questa piattaforma, che è molto molto interessante. Non solo, ma loro hanno anche dei fondi che mettono a disposizione per delle idee, dei progetti musicali e artistici, per cui insomma andate a guardare, perché potrebbe essere un modo magari per finanziare il vostro prossimo album, chissà, o la vostra prossima performance. In ogni caso, Golden Girl sono scozzesi e belgi loro, e molto giovani. Il loro primo album è uscito a marzo, appunto, per la Night School Records. Il pezzo si chiama I Don't Love You Anyway. We'll be right back. non propriamente una canzone d'amore questa. Nonostante la dolcezza, però è così, te lo dico in maniera dolce, come si... E sono le 18:09 minuti, siamo puntualissime, non c'è neanche bisogno che corriamo, riusciamo a mettere l'ultimo pezzo in tranquillità. Sono arrivate dall'altra parte del vetro, ci sono tutte le ospiti di Atti e Misfatti, che sta per iniziare alle 18:15 e trasmissione a cui noi lasceremo appunto i microfoni, e in realtà lo faremo anche molto velocemente perché il mio collegamento è abbastanza semplice da spiegare. Però volevo dire alle nostre ascoltatrici che possono trovare i podcast delle trasmissioni passate e anche eventualmente quella di questo martedì a brevissimo sul nostro blog, che è womenchart.wordpress.com, o sul blog dell'MFLA, mfla.noblogs.org, che potete giocare con noi a The Chart. Inviateci la vostra chart, fatela da sola, fatela con qualche amica, giocate a questo gioco delle connessioni e mandateci la vostra chart. Sul blog ci stanno un po' le regole base, insomma, tutte musiciste o comunque artiste, perché noi valorizziamo, appunto ci piace valorizzare la musica delle donne fatta dalle donne, e poco altro. Poi le connessioni credibili o comunque verificabili, però a parte questo, mandateci la vostra cassetta, tanto per restare in tema di cassette, anche perché pure The Chart ha questo gusto della compilation, della cassetta, comunque, perché le cassette, se vi ricordate, vabbè, c'è chi le faceva magari facendo i grandi mischioni, però io ho sempre fatto le cassette o comunque anche le compilation seguendo sempre dei fili. Non sempre, diciamo, spiegabili, non sempre facili da intuire. No, non sempre facili da intuire, però avevano sempre, appunto, non lo so, magari un certo tipo di musica, certe artiste piuttosto che altre, comunque certo. Avevi già The Chart dentro. The Chart dentro di me. Esatto. Potremmo farla una raccolta di cassette. No, guarda, che hai lanciato un'idea, mentre la dicevi già vi baluginava il progetto. Faremo le cassette The Chart, sarebbe interessante. Ma mandateci, riunire ma le compilation, certo. Tutte cassette, poi usiamo il mio mangia cassette, fino a che si chiamava mangia cassette, raga, che meraviglia. Mangianastri, certo. Va bene, insomma, prima che ci facciamo qua la nostalgia canaglia, vi diamo appuntamento fra 2 settimane, tra l'altro andiamo in onda a dicembre, sarà l'ultima puntata per quest'anno, che detta così sembra grande, però è così, perché poi per i salti delle 2 settimane ci ritroveremo all'inizio. Salti temporali natalizi, e proprio tra l'altro questo è il tema della mia connessione, ci ritroveremo a gennaio, quindi andremo in onda a metà dicembre, quindi fra 2 settimane, e poi a gennaio, così per segnatevelo nelle vostre agendine. Metterò un pezzo del National Jazz Trio of Scotland. Sì, ricambiamo l'altra volta genere, facciamo un colpo in chiusura, e tra l'altro è una cover, cioè una cover di un tradizionale, perché è Jingle Bells, così in tema per tema natalizio, ve l'ho detto. E perché però c'è una connessione, perché appunto non è a caso. Lorna Gifford, che è una coautrice, comunque ha suonato, è stata girava nella band dei Golden Girls, e si diletta appunto invece a suonare con quest'altro trio, e tra l'altro questa è la chart dei trii, che è il National Jazz Trio of Scotland. Hanno fatto solo 2 dischi, uno di standard e l'altro natalizio, e in questo natalizio una delle voci che sentirete in Jingle Bells è proprio quella di Lorna Gifford. Con questo vi salutiamo. Assolutamente. E con Jingle Bells. Jingle Bells. Non me lo sarei mai aspettato. Ma The Chart è piena di sorprese, dovresti saperlo. E noi ci rivediamo, quindi ci riascoltiamo tra 2 settimane. Per tutto il resto ci trovate sul nostro blog, potete mandarci una mail a mfla@andorossa.info indirizzata a noi. E insomma, ci trovate, se volete ci trovate. Se volete ci trovate, buon ascolto a tutte e tutti e buon proseguimento col martedì autogestito. A farla 2 martedì. Ciao.